Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Torneremo sui Bitcoin, la moneta virtuale che se ne è occupato questo programma numerose volte, l'ultima volta venerdì scorso. Perché? Perché da un lato ha superato gli $11,000, il record storico, ieri aveva superato i $10,000, oggi gli $11,000 e l'aumento del 13%. Però attenzione, perché più di una voce continua a mettere in guardia, la mia posizione personale la conoscete: se uno vuole usare Bitcoin come strumento di investimento speculativo va bene, fatti suoi, uno può rischiare su tutto. Altra cosa è pensare che A non sia rischioso e quindi speculativo, e B usarlo come moneta di scambio. Lo dico perché da un lato la Banca d'Italia è intervenuta sui Bitcoin, le criptovalute, ha detto sono delle attività, dei contratti vulnerabili a crisi di sfiducia che possono essere repentine, quindi è un fenomeno difficile da regolamentare, ha detto il direttore generale della Banca d'Italia Panetta, ma non abbiamo nessuna visibilità sul volume delle transazioni tranne quando vengono convertite in euro, ma queste sono solo la punta dell'iceberg, perché la maggior parte sono transazioni Bitcoin su Bitcoin. Stiglitz, premio Nobel dell'economia, ha detto attenzione, il Bitcoin ha successo solo per il suo potenziale di aggirare le regole e per la mancanza di supervisione dovrebbe essere vietato, non ha alcuna funzione sociale, è una bolla che regola emozioni, che regala emozioni forti a molte persone andando su e giù. Io continuo a dire che è un elemento di investimento speculativo e quindi altamente rischioso. Parleremo di questo, parleremo anche dell'economia americana che accelera, perché il PIL terzo trimestre sale del 3,3%, un dato sopra le attese degli analisti, che alla luce di quanto dichiarato ieri da quello che sarà il neo presidente della Federal Reserve e ribadito oggi in parte anche dalla presidente uscente della Banca Centrale Americana Janet Yellen, tutto porta a credere che a dicembre vi sarà un nuovo rialzo dei tassi di interesse se l'economia sta crescendo più delle attese. E Trump ha fatto notare in un tweet che senza gli uragani, senza l'effetto appunto degli uragani, l'economia sarebbe cresciuta del 3,9%. La Yellen stessa dice che si può andare avanti con un rialzo del graduale dei tassi, è appropriato. Questo per quello che riguarda il fronte statunitense e il doppio fronte Bitcoin e andamento dell'economia e dei tassi statunitensi. L'altra grande notizia di oggi riguarda, come immaginate, l'ILVA, e qui cercheremo di capire che cosa stia succedendo proprio sull'ILVA, o meglio è scontro sull'ILVA tra la Regione Puglia e il Comune di Taranto e da una parte e il Ministro allo sviluppo economico Carlo Calenda. Il governatore della Puglia, ormai molti di voi lo sanno, Michele Emiliano, e il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci hanno impugnato il decreto con il quale a fine settembre il governo ha modificato il piano ambientale. È illegittimo, ha detto il governatore Emiliano, indicando la proroga prevista a prescrizioni già di fatto scadute. La decisione, invece, risponde Calenda, mette a rischio l'intera operazione di cessione e gli interventi a favore dell'ambiente. Il decreto prevede anche il contingentamento della produzione a setto nel latte per limitare le emissioni. Tutto questo arriva nel momento in cui ci si sta confrontando sul piano industriale, che procede un po' a rilento, mentre la variabile tempo è fondamentale. Tutte le parti sembrano cercare di recuperare il tempo perduto, anche perché c'era stato già un primo stop, ricorderete, sul numero di dipendenti da confermare nella nuova ILVA. Calenda ha parlato di un investimento, di un incontro costruttivo per assicurare investimenti industriali per 1,2 miliardi, 2,3 miliardi gli investimenti ambientali e la tutela di circa 20,000 posti di lavoro diretti o indiretti, però ha congelato il negoziato, lo ha deciso oggi, l'ho annunciato oggi, in attesa del TAR di Lecce che deve deliberare sull'impugnativa del governatore appunto della regione Puglia Emiliana del comune di Taranto. Ha detto Calenda: sono inutili i tavoli finché non è chiara la situazione. E poi ha aggiunto: attenzione, dagli enti locali c'è una gestione schizofrenica, ma si sappia che se regione e comune usano tutti i mezzi necessari per far saltare l'ILVA, l'ILVA salta, però lo dica Emiliano in maniera chiara e se ne assuma la responsabilità. Questo lo ascolteremo anche dopo, perché avremo in apertura un lungo approfondimento proprio sulla situazione dell'ILVA, oltre che appunto su Bitcoin e andamento dell'economia americana. Come vanno le borse invece? Allora, più 0,14% Milano, invariata Francoforte, sostanzialmente invariata anche Milano, meglio fa Parigi, più 0,40%, Londra meno 0,60%, Dow Jones più 0,30%, euro a quota 1,18. Tra i titoli, chi cade e cede parecchio oggi è ST Microelectronics meno 6,30, poi molto più contenuto il calo di Ferrari meno 1,50, Moncler meno 1,40, Jux pure, Recordati meno 0,90. Bene invece le banche oggi, Biper più 4,50, Banca Generali più 2,20, Fineco più 2,20, Intesa San Paolo più 1,50, BPM più 1,30. Bene anche Saipem più 2,35% e sempre tra i non bancari Buzzi Unicem più 2, Ferragamo più 1,80 e A2A più 1,30% come Atlantia. L'ultima cifra in apertura è sempre la solita, quella per SMS e WhatsApp, ossia 349-238-6666. Poi c'è sempre anche il sito di Radio 24 e il programma di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Al di là appunto di Bitcoin e economia americana, veniamo all'Europa. La Banca Centrale Europea dice, per quello che riguarda l'area euro, dice: attenzione, i debiti sovrani dell'area euro sono oggi più sostenibili, ma una rinnovata instabilità politica potrebbe portare a maggiori premi di rischio sui titoli, quindi un aumento dei tassi di interesse che bisogna offrire per farsi finanziare il debito. Per quello che riguarda invece la Brexit, dopo che insomma, la BBC ha confermato quanto anticipato ieri dal Telegraph e dal Financial Times, ossia che la Gran Bretagna si sta avvicinando alla richiesta iniziale. Il primo scoglio, ci sono tanti scogli per arrivare a un accordo sulla Brexit, uno riguarda sicuramente il confine con l'Irlanda, ma lo scoglio iniziale riguardava i pagamenti che Londra deve, per accordi già presi, all'Europa. Gli inglesi offrivano 20 miliardi, Bruxelles chiedeva 60 miliardi. Oggi tutti i media britannici sostengono che insomma l'accordo potrebbe essere chiuso a 50 miliardi di euro e secondo vari commentatori si tratta di una cifra già largamente ben accolta in sede europea. E quindi questo è il primo, diciamo, l'assegno che dovrà staccare la Gran Bretagna. Poi da qui in poi si potrà si potrà ragionare degli altri temi. Tra l'altro, come titolo oggi il Sole 24 Ore, che apre sul tema della Brexit, c'è un ulteriore fondo di riserve da 6 miliardi di sterline complessivi da accantonare per far fronte a eventuali turbolenze impreviste dell'economia associate proprio all'incognito della Brexit. E questa è la direttiva infatti che ha rivolto la Bank of England, la banca centrale inglese, a tutte le banche britanniche. Banche britanniche ieri promosse dopo una nuova tornata di stress test, però dice: attenzione, dovete accantonare altri 6 miliardi, cioè mettere da parte altri 6 miliardi complessivamente per i rischi di turbolenze conseguenti all'applicazione vera e propria della Brexit. Ancora, oddio, sulla Brexit, giustamente, ma era prevedibile, il capo negoziatore Michel Barnier dice non sono ancora stati fatti sufficienti progressi sull'accordo sui tre punti preliminari. Beh, ha ragione, nel senso che appunto la parte che riguarda l'Irlanda e poi lo status dei cittadini europei in Gran Bretagna e anche lì di mezzo c'è l'Irlanda, e dei cittadini britannici nell'area dell'Unione Europea non è ancora stato risolto, e lì insomma è chiaro che sono milioni di britannici, se non ricordo male sono 6 milioni di britannici che risiedono all'estero in Europa, e su questo insomma l'accordo è ancora lontano. Però ripeto, dei tre punti, non dico il primo, ma sicuramente dei tre era quello dell'assegno da staccare. C'è una conseguenza, comunque si sta ragionando anche di quello che sarà il venir meno della Gran Bretagna come paese in Europa, perché secondo un documento della Direzione Generale Agricoltura della Commissione Europea, l'Italia avrà meno fondi PAC, non solo l'Italia, tutti i paesi, ma per quello che riguarda l'Italia, i PAC sono i fondi principali di cui gode l'agricoltura italiana e diciamo europea, visto che le politiche agricole sono praticamente totalmente in mano a Bruxelles. Dai 3,4 ai 9 miliardi e mezzo in meno in 7 anni dopo il 2020. Questo sarebbe appunto l'effetto sull'Italia di un ipotetico taglio del bilancio della politica agricola comunitaria dal 15 al 30%, perché sono documenti di simulazione in risposta ai tre scenari principali proposti a Bruxelles per quello che riguarda la Brexit. Ecco perché la cifra è così ampia, da 3 miliardi e 4 fino a un massimo di quasi 10 miliardi in meno, spalmati chiaramente in 7 anni. Allora, per quello che riguarda invece l'Italia, bene anche oggi l'asta del tesoro. Ha collocato sul mercato 1.750 milioni di BTP decennali con scadenza d'agosto 2027. Il rendimento è in calo dall'1,86% all'1,73%. In calo anche il CCT indicizzato al tasso Euribor, venduto anche qui 1.750 milioni, dallo 0,60% di rendimento annuo lordo allo 0,46%. Sul fronte bancario invece il presidente della commissione bicamerale sulle banche, Casini, ha detto che si riunirà martedì prossimo l'ufficio di presidenza per decidere il calendario di audizioni e il programma per le sue ultime settimane di lavoro prima dello scioglimento delle Camere. Ancora per quello che riguarda altre notizie, vedo molti mi scrivono sull'ILVA, sì, faccio notare che da un lato c'è la posizione, la ricorderemo, del sindaco di Taranto o anche del presidente della regione, dice basta con i trucchi, basta con i numeri al lotto, basta con gli sgabbi politici amministrativi, basta con la flagellazione sistematica di un intero territorio, basta con il furto del futuro dei nostri bambini. Si va al TAR se in questo paese esistono ancora dei valori non negoziabili dinanzi al mercato. Faccio notare che però il segretario della FIM CISL, Bentivogli, che appunto è il sindacato della parte metalmeccanica della CIS, dice la scelta del governatore della Puglia Michele Emiliano di ricorrere al TAR è da irresponsabile. Affidare al TAR il proprio disappunto per essere in un tavolo parallelo a quello col sindacato è un atteggiamento infantile e grave. Non si può trascinare una vicenda in cui in ballo il risanamento ambientale e la difesa di migliaia di posti di lavoro a capricci per la propria visibilità politica. Adesso ne parleremo. Beh, diciamo, del resto Emiliano aveva già avuto posizioni di grande visibilità mediatica quando ci furono i famosi 200 ulivi da difendere in tutti i modi a costo di bloccare un gasdotto di importanza internazionale come il TAP. Però adesso arriveremo su questo. Ancora qualche notizia in breve. Oggi presentato il nuovo Italo Evo, si chiama, il nuovo treno di NTV Italia, e sarà sui binari dal prossimo 7 dicembre. Un pendolino da 478 posti, realizzato dalla Alstom, che già realizzava nello stabilimento torinese i primi Italo. Il nuovo treno presentato oggi appunto dai vertici di NTV Italia, alla presenza del ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda e di vari esponenti politici, poi ha percorso un primo tratto tra le stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina. Montezemolo, il presidente, ha detto: presto 42 treni, continueremo ad assumere, come ha spiegato appunto al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Lo spazio interno, il comfort e poi così un'attenzione un po' maniacale sui dettagli, i colori, i materiali, e vedete, e quindi siamo molto contenti. Poi è un treno che porta 470 persone, è un treno che nelle tre categorie di viaggio, sia la club, sia la prima che la smart, offre un grandissimo comfort, e quindi diciamo non c'è questa differenza tra le varie categorie di posti. E l'ultima cosa, su Evo avrà un grandissimo ruolo la qualità del servizio delle nostre persone, che direi è quello che ha fatto il successo del fratello maggiore. Con questo nuovo treno ci saranno anche nuove tratte, anche nuovo personale, soprattutto giovane. Siamo già più di 1000 persone, tutte a tempo indeterminato, di età media 32 anni. Con questi 18 treni aumenteremo ulteriormente il numero di persone e quindi aumenterà l'occupazione, sempre puntando su giovani. Nuove tratte, nuova occupazione. E poi il grande obiettivo dell'anno prossimo della quotazione in borsa, perché la borsa serve a reperire sul mercato delle risorse per lo sviluppo. E siccome questa è un'azienda che dal 2015 fino a stasera, a ieri sera, cresce a doppia cifra, siamo fiduciosi che ci possano essere le condizioni per una buona operazione l'anno prossimo. Le tempistiche le decideremo entro la fine di quest'anno, avremo un consiglio di amministrazione per prendere questa decisione. È intervenuto su questo anche il ministro Carlo Calenda, lo sviluppo economico, poi lo sentiremo nella parte più importante, diciamo dal punto di vista della cronaca, che è quella dell'Ilva. Qualcuno mi scrive: guardi che lo stabilimento è a Cuneo, a Savigliano. Sì, ho detto in Piemonte, infatti mi risulta che Cuneo sia ancora in Piemonte. L'ho anche visitato anni fa, quando lì producevano, non so se lo facevano ancora, i primi treni per Italo, ma anche i pendolini per le reti pendolini veri, cioè i nostri riadattato chiaramente, versioni nuove ma i nostri vecchi pendolini per le linee ferroviarie britanniche, che non avendo l'alta velocità inteso come binari di alta velocità, sfruttano questa idea geniale italiana che fu quella del pendolino, che permette di affrontare le curve a maggiore velocità proprio per il tipo di baricentro che ottiene, e li vendevano appunto anche le ferrovie britanniche. Sono tutti prodotti appunto a Savigliano, in provincia di Cuneo. No, non ho detto torinese, ho detto piemontese, mi sembra, come stabilimento. Comunque andiamo avanti, sentiamo il ministro Calenda sul commentare questa presentazione e ricordare che questo è anche uno dei benefici delle liberalizzazioni nel settore ferroviario. I benefici delle liberalizzazioni, peraltro non fatte da me, nel caso specifico da Bersani, che hanno dato ottimi risultati sia dal punto di vista di investimenti sia dal punto di vista di servizi per i consumatori, che hanno visto dei prezzi abbassarsi. Oggi questo è un grande vanto dell'Italia, avere un'alta velocità che nel suo complesso è una delle migliori d'Europa. Quindi una bellissima operazione, e fa vedere qual è il valore della concorrenza delle liberalizzazioni. E poi il ministro Calenda è intervenuto anche sul tema Alitalia. Sentiamolo sempre al microfono la nostra Alessandra Screpisi, molto, molto breve, laconico. Detto, insomma, prima vedere le offerte. Quasi convivo con i commissari. Vediamo le offerte e poi le dico, quando le offerte saranno chiare e definite, uno potrà porsi il problema. Se dirlo adesso è sbagliato, perché diventa un wishful thinking, come direbbero gli inglesi. Qualcuno mi scrive: ah, lei tifa per... Sì, ho sempre detto che Calenda mi piace tantissimo come ministro, che lo trovo preparato e competente, poi posso non essere sempre d'accordo. È un po' il tema di Mario Draghi, abbiamo criticato la BCE in alcune cose, per esempio l'appoggio che sta dando la NUI nella revisione del modo in cui si vanno a calcolare le sofferenze bancarie del 1 gennaio 2018, mi sembra una follia. Però Mario Draghi ha salvato non l'Italia, che se ne facciano una ragione anche i tedeschi, ha salvato l'euro. Poi chi non ama l'euro ce l'avrà con Mario Draghi. Calenda mi sembra un ministro preparato, molto concreto, frutto anche della sua esperienza passata, dopodiché non ho nessun rapporto né affettivo né amicale con Calenda, ma non ho problemi a dirlo, non è che per forza siccome uno è un ministro bisogna criticarlo. Andiamo avanti invece. Due notizie in breve ancora. Una, l'hanno già ricordato i nostri GR24, Alfa Romeo tornerà nella prossima stagione in Formula 1, accordo con la Sauber, mancava dalla Formula 1 da 30 anni, e in bocca al lupo allora al Biscione e all'Alfa Romeo, ci mancherebbe. Marchionne ha detto l'Alfa scriverà un nuovo capitolo nella leggenda dello sport, mi auguro da italiano che qualche altro capitolo lo scriva anche la Ferrari, se mi permette la battuta. E invece domani apri i battenti a Milano City Life Shopping District, è il distretto commerciale urbano, cioè dentro una città più grande d'Italia, 7 milioni di clienti attesi, 2 miliardi di euro l'investimento complessivo per l'intera area che comprende anche la parte residenziale, commerciale e degli uffici dei tre grattacieli che ormai si vedono, è come se si vedono, sono due, il terzo si vede meno. Però firmati dalle archistari Isoaki, Hadid e Libeskind, quest'ultimo in realtà è quello che si vede di meno perché deve ancora sorgere, ma i primi due sono abbastanza visibili. Oggi l'anteprima per la stampa, l'amministratore delegato di City Life Armando Borghi al microfono della nostra Maria Luisa Pezzali. 3 anni fa qui c'era un buco profondo 12 metri, oggi ci sono 30.000 metri quadrati di superficie commerciale, 100 negozi, 20 ristoranti, 7 sale cinematografiche, un posto straordinariamente bello disegnato da una grandissima artista come Zadid. Un primato italiano in quanto a mall urbano? Assolutamente sì, per dimensione, per varietà di offerta, per possibilità di fruire degli spazi sia all'aperto che all'interno, per poter diciamo stare molto bene con la propria famiglia in un posto veramente molto gradevole. La scelta di marchio è stata fatta insieme al nostro advisor che sono ASR, che ci ha aiutato a fare il tenants mix e il merchandising mix, quindi a mettere insieme diversi marchi, diversi negozi, ed è l'idea è quella di fare un posto per tutti, quindi abbiamo una grande segmentazione di prezzo e di offerta sia per il cibo che per i negozi. A quante presenze puntate? Puntiamo a 7 milioni di presenze su base annua, che ci sembra un numero assolutamente ragionevole, e quindi siamo molto confidenti di riuscire a raggiungere questo numero. Credo sia un polo di aggregazione per la città, credo ci sia molta curiosità da parte dei cittadini di tornare a riappropriarsi di un posto che per troppi anni è stato chiuso. Qualcuno mi scrive Milano dove? Beh, City Life sorge qua vicino, tra l'altro nell'ex zona vecchia fiera, sono rimasti alcuni padiglioni, la vecchia fiera di Milano in realtà si chiama City Life adesso, siamo a qualche centinaio di metri in linea d'aria dalla sede, quella milanese del Sole 24 Ore. Sono 700 i nuovi posti di lavoro previsti, come ha ricordato sempre la nostra Maria Luisa Pezzali, l'assessore alle politiche del lavoro di Milano, Cristina Tajani. Sicuramente un'apertura importante non soltanto in termini di impatto commerciale ma anche in termini di impatto occupazionale sulla città. Ad oggi gli assunti per l'apertura sono circa 580 che potranno arrivare a quasi 700 anche grazie alla collaborazione tra City Life e il Comune di Milano, che mette a disposizione i propri centri di formazione professionale per il reclutamento e l'addestramento delle persone addette alla ristorazione e alle attività di vendita. Oh, adesso andiamo sul meteo e poi partiamo con l'Ilva. Qualcuno mi scrive, se lei tifa Calenda il poveretto dovrebbe toccarsi, vabbè, lo faccio, che posso controllare anche questo. Qualcun altro mi dice, speriamo che Calenda non diventi presidente del consiglio, altrimenti chissà che trasmissioni lei potrebbe fare. Ma guardate che abbiamo criticato anche, cioè, uno può dire che si muove bene Calenda e poi magari criticarlo per altre cose, qualora dovessero esserci delle cantonate. A me quello che piace è che obiettivamente è sempre molto pragmatico e conosce le cose di cui parla, non è una cosa scontata nei nostri ministri presenti e passati. O vogliamo andare a ricordarci a altri ministri di altri governi allo sviluppo economico o alle attività produttive? Ma dai, su, per carità di patria, sto zitto. Spottone per City Life. No, guardi, non è uno spottone per City Life. Ogni tanto ci sono anche delle cose positive e dimostra che quando tu hai un piano urbanistico, se posso dirlo, visto che il merito va dato all'ex sindaco Moratti, poi ha proseguito Pisapia, lo gestisce Sala, quindi hai una riqualificazione urbana, poi arrivano anche gli investimenti, arrivano anche gli investimenti privati. Allora, se poi uno rosica non me ne frega nulla, ma la capacità di sinergia tra pubblico, cioè comune, e delle volte anche regione, ci mancherebbe, e privato, a Milano obiettivamente funziona. Poi uno può fare i suoi paragoni con Roma, con Firenze, con altre città, ma è inutile dire ogni volta è uno spottone. Ma se c'è un centro che va ad assumere, che ha, avrà anche un giro d'affari, ma perché non essere contenti? Quell'area lì era un'area appunto in cui non c'era niente prima, per favore. Sì, c'era la vecchia fiera, appunto. Sempre contro. E uno faccia anche una riflessione se è giusto dire sempre di no a qualunque tipo di investimenti o riqualificazione urbana, con l'idea che tanto se si fa un grattacielo patrono le tangenti, si ruba e si mangia, se è così non fai nulla, ok? Meteo, pubblicità e poi andiamo sull'Ilva. Focus Economia. Soy el fuego que... minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, scontro sull'Ilva. Partiamo da quello che è successo, insomma, molti di voi lo sanno, è il ricorso fatto, o meglio il decreto impugnato dal governatore della Puglia Michele Emiliano e il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, ha di fatto portato al blocco di ogni negoziato, lo ha annunciato infatti il ministro Calenda poco fa. Il governatore Emiliano ha detto è illegittimo il fatto che venga prorogata, che vi sia una proroga prevista per iscrizioni già di fatto scadute. La decisione mette a rischio intere operazioni di cessione di interventi a favore dell'ambiente. Sulla stessa falsa riga, se ho ben visto, anche il sindaco di Taranto, che ha detto basta con il furto di futuri bambini. Caro ministro Carlo Calenda, io rispongo alla mia coscienza ai tarantini, non al portafogli di qualche lobbista. Se l'acquisizione non rispetta l'ambiente e le nostre priorità, è un problema di chi l'ha permessa. Allora, ascoltiamo che cosa ha detto Calenda nel ringraziare intanto Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore in collegamento da Taranto. Buonasera Domenico. Buonasera Sebastiano. E grazie anche a Paolo Bricco che oggi, oltre ad aver seguito in questi mesi la vicenda Ilva, Paolo Bricco del Sole 24 Ore, ciao Paolo anche a te. Buonasera a tutti. Oggi in prima pagina ne scrive su Sole 24 Ore quando la politica entra a gamba tesa. Che cosa è successo all'Ilva? Prima di ascoltare gli audio. Ilva, primo stabilimento siderurgico italiano e tra i primi in Europa, a pieno regime forniva il 50% della produzione d'acciaio italiana, che è la seconda in Europa, lavoravano 11.000 addetti. Commissariato dall'aprile 2013, dopo le inadempienze dei proprietari Riva di carattere ambientale, emerse da diverse perizie condotte dalla magistratura. A giugno, dopo una gara che era iniziata un anno fa, cioè era iniziata nel 2016, a giugno AM Investco erano rimasti in due con un'offerta di acquisto di 1.800.000.000, 1.100.000.000 di investimenti ambientali e 1.200.000.000 di investimenti industriali. Vince la gara sulla concorrente Acciai Italia. Per il passaggio formale definitivo occorrono però due condizioni: l'accordo con i sindacati e il via libera dell'antitrust europeo che sta esaminando il dossier. C'erano state già degli stop, perché il piano di esuberi e invece di nuovi occupati non era quello previsto, e ne abbiamo parlato nell'incontro governo, sindacati, governo vuol dire Calenda, sindacati e vertici dell'Ilva. Adesso però lo stop al negoziato per il momento fa venire meno una delle due condizioni, ecco perché Calenda ha detto il negoziato è congelato in attesa del TAR, della sentenza del TAR di Lecce che deve dire se si può, cosa ne pensa sull'impugnativa fatta da Emiliano e dal comune di Taranto. Che possiamo fare, signori? Qua il tema è vedere cosa dice il TAR di Lecce. Se il TAR di Lecce dà la sospensiva, gli amministratori straordinari saranno obbligati, noi faremo ricorso al Consiglio di Stato nel caso, ma saranno obbligati a iniziare le procedure di spegnimento. In queste condizioni che vogliamo parlare? Gli investitori, preghiamo il Dio che rimangano, devono ritirare questo assurdo ricorso, sedersi al tavolo per Taranto, che io mi accingevo a convocare stamattina, avevo la riunione per convocare Taranto e Genova, come loro avevano richiesto, come avevano detto l'ultima volta. La cosa incredibile è anche l'assoluta inconsistenza con quello che si dice. A un tavolo si dice, bene, venuto Emiliano, prima ci chiedono un tavolo, faccio il tavolo, non si presenta il sindaco di Taranto, all'ultimo minuto, si presenta Emiliano, gli presentano il piano industriale e il piano ambientale. dice sono contento perché ci sarà il tavolo su Taranto, è stato confermato eccetera, poi io sto per convocare il tavolo su Taranto, nel frattempo fanno partire un ricorso, ma è una gestione schizofrenica, io onestamente non capisco. Se regione e comune usano tutti i mezzi possibili per far saltare l'Ilva, l'Ilva salta, perché non è che si può fare ovviamente un investimento di quelle dimensioni contro la regione e il comune, ma se ne devono assumere la responsabilità, devono dire chiaramente che loro vogliono la chiusura dell'Ilva. Dopodiché è una posizione che io non condivido, ma che almeno è chiara e trasparente. Cercare di farlo attraverso i ricorsi, attraverso l'inconsistenza dei comportamenti per non assumersene la responsabilità è inaccettabile. Direte che sono noioso, ma io penso che il ragionamento fatto dal ministro Calenda non faccia una piega, però me ne sto zitto adesso perché non posso fare troppi complimenti a Calenda. Ma porca miseria, o viene smentito quello che ha appena detto il ministro dal sindaco di Taranto, che è inutile che faccia i tweet dicendo i ricatti non ci spaventano. Ti sei presentato o no al tavolo? O viene smentito da... perché non ti sei presentato all'ultimo minuto? O viene smentito dal governatore della Puglia, Emiliano, che lui aveva detto beh, bene che ci sia un tavolo e poi adesso fa ricorso al TAR quando Calenda lo sta per convocare, e soprattutto, come mi scrivono molti ascoltatori, io vorrei capire, al di là del ricorso, che cosa propongono Emiliano e il sindaco di Taranto, perché io questo non ho ancora visto un'agenzia, il furto del futuro dei bambini. Adesso te ne rendi conto che l'IVA inquinava, va bene, che cosa proponete? Sentiamolo, sentiamolo, perché il sindaco di Taranto, io ringrazio, chiedo ancora un po' di pazienza ai due colleghi, l'ha raggiunto oggi il nostro Simone Spezia a effetto giorno. Sentiamo il sindaco di Taranto. Noi dovevamo fare come sistema paese delle cose in tema ambientale preordinate rispetto a qualunque aggiudicazione già 2 anni fa. Abbiamo completamente, c'è una grave responsabilità anche della struttura commissariale, mancato tutti gli obiettivi di quell'AIA. Oggi arriviamo a ereditare con un DPCM imposto alla comunità questa nuova AIA che addirittura è più edulcorata della precedente che abbiamo disatteso e differisce la valutazione del rischio sanitario. Cioè noi diciamo ai cittadini non solo non applichiamo le migliori pratiche, ma soprattutto vi diciamo che dovete ammalarvi con questa nuova AIA edulcorata fino al 2023, morire serenamente, dopo il 2023 chiunque sia l'aggiudicatario inizieremo però a valutare l'impatto sulla salute. È vero anche che per interventi di questo tipo A ci vuole tempo e B, dice il ministro Calenda, è prevista addirittura la riduzione della produzione fino a quando non si arriverà ad una condizione di funzionamento ambientale corretto dell'Ilva. Il ministro queste cose le deve dire a noi, le deve certificare, non deve fare passerelle in televisione. Questa città è stufa degli annunci, abbiamo bisogno di programmazione, dotazioni formali, strumenti amministrativi, ma se davvero l'investitore è così convinto del suo piano industriale, che ancora non riusciamo a percepire nella sua portata complessiva, come mai oggi il ministro Calenda, solo per un semplice ricorso, addirittura minaccia di fermare tutto e di far scappare a gambe levate l'investitore? Sul tavolo della trattativa non possono mancare gli enti locali e non può non essere ascoltata la comunità. Io sono convinto tutto sommato della serietà e bontà dell'investitore, però il metodo è completamente ancora sbagliato. Io non so, ma avete sentito che cosa ha detto il sindaco di Taranto? Ha detto: il ministro Calenda queste cose deve dirle a noi. Calenda ha appena detto che quello non si è presentato alla prima convocazione, stava per convocare questa mattina un tavolo. Queste cose si dicono nei tavoli, dopodiché se non sei d'accordo puoi fare ricorso al TAR, ma prima cerchi di capire. Credi nella bontà? No, adesso capite che cosa, lo dico all'ascoltatore, capisco che ci sono come sempre delle visioni miopi. Dici poi noi crediamo nella bontà dell'investimento, il ministro Calenda però minaccia, ci ricatta. No, tutto si ferma perché non puoi fare un'operazione del genere senza comune e regione. Devo mandare il traffico e poi iniziamo a ragionare con Paolo Bricco e chiaramente Domenico Palmiotti. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Allora, Domenico Palmiotti, poi ascoltiamo anche il ministro dell'Ambiente Galletti, sempre al microfono, il nostro Simone Spezia. dammi la posizione, io ho letto le agenzie, del sindaco di Taranto e del governatore Emiliano, io non riesco a capire perché al di là della bontà della posizione non se ne possa parlare nel tavolo che Calenda stava convocando, e casomai uno fa un ricorso al TAR che blocca di fatto tutto il passaggio delle trattative. Forse capisco male io, forse sono un po' naif. Ma Sebastiano, io dico che le esigenze che pone Taranto in materia di difesa dell'ambiente, di tutela del lavoro, sono sacrosante e sono giustissime. Però io penso che queste ragioni possono ottenere una risposta se si affrontano i problemi, se si negozia con l'interlocutore, se si tratta con le parti, un negoziato duro e complesso, perché certamente Mittal non viene qui per fare regali, né sarebbe stato tutto un cammino di rose e fiori, però io francamente non credo che la via giudiziaria, la via dei ricorsi possa portare dei risultati. La strada che porta ad un risultato è quella del confronto duro, impegnativo, come si stava cominciando a fare, e qualche spiraglio si era già aperto, perché non dimentichiamo che Mittal si è impegnato ad assumere almeno 10.000 persone, e questo dato in partenza non era scontato. No. Si è impegnato a riconoscere anche le voci retributive accessorie, sia pur collegandole agli obiettivi di produzione dell'azienda, ai risultati produttivi dell'azienda, e inizialmente Mittal queste voci le voleva cancellare. La copertura dei parchi minerali, che non si fa certamente con uno schiocco di dita, il governo sta lavorando perché i commissari avviino i primi lavori a gennaio senza aspettare che Mittal entri nella stanza dei bottoni, quindi piccole cose, grandi cose, ma mi sembrano dei passi avanti. Poi io analizzo la tempistica. Il Comune di Taranto e la Regione hanno sempre chiesto di partecipare al tavolo certo, con sindacati, AM Investco e Governo. Il Governo ha sempre detto: un conto è la trattativa con il sindacato, l'azienda e il Governo, un conto è il confronto fra AM Investco e gli enti locali. Calenda giorni fa ha ricevuto tutti gli enti locali, il sindaco di Taranto, il Comune di Taranto non c'era, c'era invece Emiliano, ha ricevuto tutti gli enti locali. Non si capisce perché non ci fosse il sindaco di Taranto, perché poi dice che Calenda deve parlare con noi. Vabbè. Perché ha detto che il sindaco Minelucci disse poco prima che cominciasse quell'incontro che riteneva che quell'incontro non avrebbe dato risposte esaustive, allora sa tutto lui, perché sarebbe stato sa perché in quel momento era un tavolo con tutti gli enti locali, è vero, e Taranto pretendeva un tavolo sento per odore di elezioni, ma subito dopo però bisogna anche dire che Calenda aveva annunciò io farò tre tavoli, uno per Taranto specifico, uno per Genova e uno per i siti minori. Questi tavoli non si è dato nemmeno modo di avviarli, lo dico agli ascoltatori. Adesso devo andare sul GR24 e poi Paolo Bricco ci spiegherà insomma in che cosa si inquadra, perché nessuno qua è bambino o naif, questa cosa. Però io dico, ti siedi, tant'è che ben ti voglia la CIS dice mi sembrano ripicche da bambino, come dire non ci avete chiamato al tavolo con i sindacati e adesso fate saltare tutto, ed è la CIS, la FIM CIS, cioè che difende parte dei dipendenti dell'ILVA. Io dico, tu vai al tavolo, se non ti convince perché da questo punto di vista ritieni che ci sono delle minacce per i tuoi cittadini, dici ok, non mi convince, faccio ricorso al TAR. Ma non fai un ricorso al TAR prima ancora di sederti e capire che margini ci sono? Ma io non lo so. Comunque, GR24, e poi torniamo in diretta e parliamo anche di Bitcoin e Stati Uniti. Però devo lasciare un ampio spazio a Paolo Bricco, che chiedo ancora grazie per la pazienza. 3-4, ci sei Paolo? Assolutamente, sono qua e vi ascolto come volentieri. Qualcosa interessante diremo anche noi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, dopodiché l'ascoltatore Paolo Bricco diventerà invece ospite di questo programma GR24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Paolo Bricco, dopo aver ascoltato la voce del sindaco di Taranto, quello che diceva il ministro Calenda, e non devo riassumere, ma insomma, se qualcuno si è appena messo in ascolto, stiamo parlando dell'Ilva. Calenda lamenta il fatto che nel giorno in cui voleva convocare i tavoli con le regioni e il comune, quindi gli enti locali, tavolo separato da quello che è in corso tra i nuovi proprietari e i sindacati, loro hanno fatto un ricorso al TAR e tutto si blocca. Poi ascolteremo anche il ministro Galletti. Io ho il sospetto che sotto ci sia, diciamo, un'esigenza più di carattere politico che non solo, perché ripeto, uno può tener conto di quello assolutamente degli abitanti di Taranto, ma prima ti siedi al tavolo. Se le richieste che tu avanzi non vengono esaudite o non c'è una garanzia sulla sicurezza ambientale, puoi fare un ricorso al TAR. Sono io che sono malizioso, Paolo? No, direi assolutamente no. Sono d'accordo, voglio innanzitutto ricordare che il presidente della Regione Puglia, Emiliano, ha sollevato questioni giuridiche e ostative nei confronti anche di altre operazioni di carattere industriale, mi riferisco alla TAP. Vorrei ricordare che, come hai detto tu prima dell'interruzione pubblicitaria e del GR, c'è un grande odore di elezioni in arrivo. Trovo francamente offensivo per molte delle controparti coinvolte la citazione da parte del sindaco di Taranto dell'espressione il portafoglio di qualche lobbista, perché qui stiamo parlando di una situazione che riguarda la sua comunità che lui guida come sindaco, che riguarda la regione presieduta appunto da Emiliano, che riguarda il paese. E non è una questione di lobbismo, non è questione del portafoglio di qualcuno, è una questione che riguarda poco meno di 20.000 addetti fra diretti e indiretti in Puglia, è una questione che riguarda investimenti ambientali e industriali per 3,5 miliardi di euro. Vorrei citare una parola che ha utilizzato nel suo intervento il ministro Calenda, e questa parola è spegnimento. Non voglio fare un discorso tecnico da ingegnere mancato, ma vorrei soltanto dire che qualora il TAR di Lecce accogliesse le richieste sollevate da Regione Puglia e Comune di Taranto, si andrebbe verso un'ipotesi di spegnimento, e lo spegnimento in un gigante siderurgico come l'Ilva significa la morte dell'impianto. Dal punto di vista tecnico diventa complicatissimo ritornare a fare girare un impianto di questo genere qualora si arrivasse a una condizione giuridica, politica, economica che conduce allo spegnimento. A quel punto il gigante si riaddormenta e non si risveglia più. No, lo abbiamo spiegato, se non ricordo male, quando iniziarono a spegnersi gli altri forni, che ci volevano giorni per spegnere un altro forno, e poi la riaccensione, come tu dici, non è che semplicemente uno schiaccia un pulsante e riaccende un altro forno. Questo bisogna anche saperlo. Molti ascoltatori mi dicono, va bene, allora se non servono questi occupati che usano tutti questi per 20.000 bagnini e quant'altro, ma guardate, il problema non è contestare il merito, a mio avviso, dell'iniziativa del sindaco di Taranto e del governatore Emiliano, perché se due rappresentanti di enti locali hanno dei dubbi sulle garanzie che vengono date per l'impatto ambientale, è giusto che li portino avanti. Il problema, Paolo Bricco e poi Domenico Pagnotti, mi sembra in questo caso, come non posso far riascoltare Calenda, ma c'erano delle cose incredibili. Lui dice: ho fatto un primo incontro, non è venuto il sindaco, è venuto solo Emiliano, ha detto bene, prendo atto. Poi oggi, che dovevo fare questa mattina, per dare indicazioni per la convocazione del tavolo tecnico per gli enti locali, mi arriva ricorso al TAR, e allora di cosa stiamo parlando? Mi sembra che sia il metodo allucinante, non il merito, perché giustamente l'ente locale, il comune, la regione, ma è anche giusto che si preoccupi, ci mancherebbe, della salute, della sicurezza, delle garanzie che dà il nuovo acquirente nei confronti, diciamo, dell'impatto ambientale. Paolo e poi Domenico. Sì, è assolutamente così. Però deve anche preoccuparsi degli effetti delle sue azioni l'ente locale, e in questo caso sembra quasi che nessuno abbia pensato che cosa capiterebbe se il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Lecce, dovesse accogliere queste istanze. E semplicemente si bloccherebbe l'intero procedimento di assorbimento da parte della società formata da ArcelorMittal e da Marcegaglia dell'impianto. Io nel commento che tu hai citato sul quotidiano, sul Sole 24 Ore pubblicato oggi, ho citato un fantasma, che è il fantasma di Bagnoli. Noi italiani tendiamo a dimenticarci troppo rapidamente che cosa è capitato nel nostro paese. Nel nostro paese è capitato che si è pensato di fare una bonifica complessiva del sito industriale siderurgico di Bagnoli senza che più vi fosse un'impresa attiva in esso. Il risultato è che l'impianto di Bagnoli, ancora oggi il sito di Bagnoli, è un luogo con problemi enormi. Il mio timore è che se si arrivasse a uno stop complessivo dell'operazione, non ci sarebbero poi le condizioni per sistemare, bonificare e porre riparo ai problemi ambientali rilevanti che ha Taranto, ma che senza un'impresa operativa davvero non ci sarebbe la possibilità di porvi rimedio. Certo. Domenico, nel senso che qui stanno giocando col fuoco, ripeto per la terza volta, un conto è dire noi al tavolo veniamo convocati per portare e chiedere garanzie stringenti sull'impatto ambientale, tra l'altro nel progetto che ho visto io l'IVA accettava di produrre meno per emettere meno finché non tutto non era risolto, altra cosa è fare un ricorso che adesso se il TAR, che a quel punto si muove sulla base di altri, giustamente di altri criteri, valuta se il ricorso è accettabile o non accettabile, se dovesse essere accettato bloccherebbe tutto. Cioè anche dal punto di vista politico non capisco se poi tutti i tarantini siano d'accordo, prego. Ma sicuramente io credo che bisogna lavorare per raffreddare la tensione, per evitare di avvitarsi in questa logica del muro contro muro, perché questa logica del muro contro muro, dei ricorsi, dell'inasprire una situazione già piena, densa di difficoltà, non porta da nessuna parte. Con grande fatica questa azienda aveva trovato un acquirente, ricordiamo che siamo in questa situazione di guado, di incertezza da ben 5 anni, non da 5 mesi, 5 anni, che nel gennaio 2016 è stato avviato all'iter per la cessione dell'azienda, ma che l'esito finale della gara si è avuto soltanto a giugno scorso, quindi è passato un altro anno e mezzo. È ovvio che il TAR presumibilmente deciderà nel giro auspicabile di 1 o 2 mesi, poi bisogna vedere cosa decide, se si andrà o meno al Consiglio di Stato, però mi chiedo, 2 mesi, 3 mesi di ulteriori ritardi, di stasi, fanno bene a Taranto, risanano l'ambiente di Taranto, tutelano il lavoro di Taranto? Infatti io non capisco perché non si siano intanto seduti al tavolo che Calenda voleva convocare. Tra l'altro, se il TAR ci mette un paio di mesi, qui andiamo abbastanza sotto data elettorale, ma comunque non voglio neanche immaginare il resto. Vi faccio ascoltare nel ringraziare sia appunto Paolo Bricco che Domenico Palmiotti in collegamento con noi da Taranto. Che cosa ha detto, visto che tutte le agenzie lo hanno ripreso, il ministro Galletti, qui stiamo parlando di salute, il ministro quindi all'ambiente Gianluca Galletti, sempre effetto giorno, sempre dal nostro Simone Spezia, che dice: insomma, sono stupito, il piano per quello che vede il Ministero dell'Ambiente era il massimo possibile. Io faccio davvero fatica a spiegarmelo, perché noi abbiamo approvato un'autorizzazione integrata ambientale, apportando delle modifiche a quella del 2014, che la rende molto più performante, prevede investimenti per oltre 2 miliardi di euro, prevede la totale ambientalizzazione anche ad esempio dei parchi minerari minori che non erano previsti dall'ambientalizzazione precedente. Abbiamo messo un tetto alla produzione, per cui fino al momento in cui non saranno terminati tutti i lavori di ambientalizzazione, l'azienda non potrà produrre più di 6 milioni di tonnellate di acciaio all'anno, che è quello che producono oggi in una situazione di emissioni compatibili con le leggi italiane. Non mi spiego la ragione di un ricorso. L'abbiamo lasciato in consultazione pubblica per un mese, abbiamo recepito gran parte delle osservazioni che ci sono arrivate. Abbiamo fatto un procedimento trasparente. Sinceramente faccio fatica. Sì, loro sostengono che ci sono troppe proroghe per quanto riguarda le prescrizioni ambientali, almeno questo dice Emiliano. Ma ma non sono proroghe. Gli interventi vanno fatti, gli interventi per farli richiedono tempo. Cioè, se io faccio la copertura di un parco, non posso pensare di dare un tempo a chi lo deve fare più breve di quello che ci vuole materialmente a farlo. Questi sono termini reali, compatibili con le risorse a disposizione. Per questo io lo reputo un buon piano ambientale. E poi non esiste un piano B, Non esiste un piano B, quindi attenzione a far saltare la trattativa che abbiamo in corso. Se la Regione Puglia e il Comune di Taranto dovessero ottenere ragione dal TAR, il rischio quindi è che salti tutto? Io mi auguro proprio di no, ma il rischio c'è. Vabbè, grazie a Domenico Palmiotti, grazie a Paolo Bricco, questo era il ministro dell'ambiente, ma adesso possiamo anche dire che anche lui racconta balle, che sanno tutto il sindaco di Taranto e il governatore Emiliano, ma anche se fosse così non si giustifica il fatto che non abbiano prima voluto sedersi al tavolo con il governo e il nuovo azionista e poi eventualmente fare un ricorso al TAR. Non uscirò mai da questa logica. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo sul traffico, poi la borsa la faccio io l'ultimo approfondimento che sono oggi i bitcoin, poi andrò più avanti la prossima volta sugli Stati Uniti. Focus Economia. :22, dunque la borsa, come dicevamo anche nella prima ora, +0,15% Milano, +0,14% Parigi, più invariata Francoforte, Dow Jones +0,30%, Londra -0,90%, le banche beneficiano oggi in Italia, insomma c'è attesa perché tra oggi e domani arriveranno le indicazioni della BCE sui requisiti patrimoniali per diversi gruppi bancari italiani. BPER ha già comunicato oggi, non a caso è quella che guadagna di più, +4,34%, bene anche Banca Generali +2,40%, FinecoBank +2%, Intesa +1,60% e poi Mediobanca +0,96%, bene anche Saipem +2%, salgono anche altre utilities soprattutto Acea dopo il piano presentato ieri. Comunque A2A guadagna l'1,50% per quello che riguarda Acea, visto che la citavo, +11,55%. Ancora tra chi cede, al di là di Ferrari -1,70%, Campari -1,5%, Leonardo -1,40%, Moncler -1,20%, ST Microelectronics -6,80%, prevalgono soprattutto i realizzi. Debole anche Telecom dopo -0,60% dopo che perde quota l'ipotesi dello scorporo della rete. Segnalo come notizia di mercato che invece Fincantieri oggi si è aggiudicato una commessa da parte di MSC Crociere per una nuova commessa per 1,8 miliardi per realizzare due nuove navi da crociera. Oggi comunicato a Monfalcone la presenza del Presidente della Repubblica e presenti anche il numero 1 di Fincantieri Giuseppe Bono, il presidente del gruppo MSC Crociere Gianluigi Aponte e il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio. Bitcoin record arrivato ieri a $10,000, oggi supera gli $11,000, +13%, nonostante tutti gli istituti, oggi anche la Banca d'Italia per voce del direttore generale Fabio Panetta dice attenzione, i bitcoin e le criptovalute sono delle attività, dei contratti vulnerabili a crisi di sfiducia che possono essere repentine. Il fenomeno è difficile da regolamentare e tra l'altro le transazioni convertite in euro, le uniche di cui abbiamo visibilità, sono pochissime, sono solo la punta dell'iceberg. Nel frattempo anche il premio Nobel Stiglitz dice attenzione, il bitcoin ha successo solo per il suo potenziale di aggirare le regole, non ha alcuna funzione sociale, dovrebbe essere addirittura vietato. Professor Donato Masciandaro, che insegna economia monetaria alla Università Bocconi di Milano, nonché editorialista Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, dottor Barisone, grazie dell'invito. Io con lei volevo parlare anche dell'ottimo dato sul PIL americano, del fatto che ormai i tassi tutti si aspettano che verranno tirati su lentamente, ma già da dicembre. Però le lascio tutto lo spazio che manca per darmi un suo commento su Bitcoin. Io non è che li veda come una bestemmia, dico solo, è uno strumento di investimento speculativo, quindi molto rischioso. Non mi sembra possa essere trattato come una valuta di scambio. Prego. Allora, primo, perché vietarlo? Lasciamo che qualcuno si scotta le dita. Che cosa voglio dire? Voglio dire che nasce come un mezzo di pagamento. In questo momento è uno strumento di speculazione, è un mercato, è forse una bolla, ma non è sicuramente una bolla sistemica. Se scoppia, si fanno male solo coloro che vogliono speculare, cioè persone molto, molto avverse al rischio. E invece vietarlo, secondo me, sarebbe peggio. È sempre bene che ci sia qualcosa di non regolamentato, perché così ci si scotta le dita e si capisce come è meglio lavorare nei mercati regolamentati. No, poi c'è anche chi ci guadagna, perché chi l'ha comprato a 6.000 e adesso lo vede a 11.000 ci guadagna, ma come in tutte le forme di investimento altamente speculativo e quindi altamente volatile e rischioso, c'è chi guadagna e c'è chi perde, perde tanto. Lei come se la spiega il fatto che insomma però continua a aumentare il suo valore, al di là del fatto che il 70% più o meno di queste transazioni sono in Cina e un'altra grossa fetta in Russia? Allora, innanzitutto stiamo parlando di tanta panna, poi bisogna vedere che cos'è la sostanza, ma soprattutto non mi meraviglia il fatto che le quotazioni aumentano, perché quando ci sono operatori che per esempio ci disegnano su contratti future, beh, questo a parità di altre condizioni aumenta la liquidità e l'appetibilità. Quello che sta succedendo in questi mesi è che ancora non ci sono stati le truffe e i crack che ci sono stati nei mesi scorsi, quindi siamo in una fase ascendente, le notizie sono buone, tutti coloro con una propensione al rischio stanno entrando in questo mercato, però ripeto, è interessante osservare, non vedo problemi sistemici, ecco. Quindi lei dice, tutto sommato, siccome un eventuale crollo del valore dei Bitcoin riguarderebbe solo chi ha voluto utilizzarlo e investire nello strumento dal punto di vista speculativo, a questo punto lasciateli correre come meglio credono. Ma lei si è fatto, ho 30 secondi, si è dato una risposta sul perché di questo grandissimo successo? E glielo ripeto, se lei inventa una nuova roulette, tutti coloro che hanno una forte propensione al rischio e un minimo di alfabetizzazione informatica si chiedono perché no. Quindi la guardiamo e in più, essendo un'innovazione tecnologica, attira anche molto l'attenzione dei media. In più è un'innovazione, quindi anche interessante da osservare. Direi che possiamo continuarla a osservarla e chi è propenso al rischio può provare a metterci su qualche fish. Ho capito, anche l'ironia. Grazie al professor Donato Masciandaro, che appunto è editorialista del Sole 24 Ore, insegna economia monetaria alla Bocconi di Milano. Andiamo chiaramente sulla nostra programmazione. Focus Economia termina qui. Da Sebastiano Brezzoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.